È lì che lei mi ha detto: ci rivediamo? E io ho risposto: ma sai, sono fidanzato, forse è meglio di no. E allora lei ha replicato: beh, ma scusa, dicevo che possiamo vederci come amici. Sarà mica vietato, no? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, quasi 7 minuti di un qualunque lunedì 23 maggio del 2011. Questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Una delle parole, uno dei termini, insomma, delle definizioni più usate dalle persone della mia generazione e per le persone della mia generazione è sicuramente la parola precariato. È uno di quei termini che saltano fuori quasi all'improvviso, da un giorno all'altro. Li leggi sulla pagina di un giornale, oppure li senti detti da un politico o da qualche studioso del settore, no? E da quel momento lì diventano un simbolo, diventano una definizione di genere, di generazione. Il precariato è un modo di lavorare, è diventato uno stile di vita, ma anche un modo di consumare i propri giorni o di avere speranze per il proprio futuro. Sono poche le persone che io conosco che sono assunte a tempo indeterminato, ma non sono nemmeno così tante le persone che maledicono questa condizione, perché molti precari hanno deciso di vivere quella vita lì. Sono ad esempio musicisti che preferiscono immaginare un futuro incerto ma di godimento del proprio tempo, oppure persone che scelgono di aprirsi una partita IVA per inventarsi un lavoro invece che cercarselo. È molto difficile stilare un profilo preciso del precario oggi. Le persone tra i 35 e i 45 che conosco sono molto diverse tra loro. Alcuni hanno deciso di essere precari, altri ancora invece se lo sono ritrovati addosso. Alcuni ancora si stupiscono di dover contare sui propri genitori per poter chiedere un finanziamento, altri invece ormai con quella roba lì ci hanno fatto la pace. Ecco, oggi vorrei proprio raccontare storie, possibilmente tante storie, di quarantenni precari, per cercare di capire chi sono, cosa fanno, come ci sono finiti a fare quella cosa lì, perché. Persone che magari hanno una famiglia, oppure no, hanno dei figli o non li hanno, ma che si trovano in una situazione che è completamente diversa da quella dei propri genitori alla loro stessa età. Che in alcuni casi la precarietà è nociva, in altri no, in alcuni casi la stabilità è nociva e in altri per niente. Ecco, qualsiasi sia la vostra attività, qualsiasi sia il modo in cui lo vivete, se siete quarantenni e precari, se volete raccontare che cosa fate, come vivete, oggi io sono qui e questa è la puntata per voi. Io non ce la faccio più. Che ore sono? Le 7. C'ho ancora un monte di roba da fare. Cioè dovrei andare via alle 9. Sapete cosa siamo noi? I precari sono i nuovi martiri. Noi siamo i martiri di questa epoca. Ma io non voglio morire per questa azienda, va bene? Perché questa azienda cosa fa per me? Niente. Non mi assicura nemmeno un futuro e io devo morire per loro. Io vado a casa. Ciao belli. 800240024 0024 è il numero per chiamare in diretta, oppure l'altro numero per mandare un sms è 349-238-6666. È una puntata molto semplice che viene dal fatto che ho incontrato l'altra sera una persona che ha 42 anni, che conosco da 10 anni, o meglio l'avevo conosciuta 10 anni fa, e fa esattamente la stessa cosa ed è esattamente nella stessa condizione. Però il fatto è che quella definizione lì, quella definizione di precario, vale per moltissime mestieri, moltissime professioni e moltissime categorie umane. E quindi oggi semplicemente mi piacerebbe sentire chi siete, cosa fate, che lavoro fate, se ve lo siete scelto oppure no, solo ovviamente se siete precari e se siete attorno alla generazione dei 40. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Ogni tanto mi parte l'8, invece è 349, che ad esempio un musicista è un precario? Sì, o magari no, dipende. Io mi ricordo che conoscevo una corista che lavorava nel coro del teatro di Venezia, forse la Fenice, e non era precario, aveva uno stipendio e aveva... Gli orchestrali di solito non possono precari, però non è vero, ci sono orchestrali precari. L'architetto è un precario? Boh, alcuni sì, alcuni. Un centralinista è un precario? Forse sì, forse no. Un biologo? Pure. Io ricordo che quando ho fatto la scuola di teatro ormai una vita fa, c'era questo insegnante che era un vecchio attore, molto distinto, un signore di quelli che proprio li vedi scendere, uscire dal teatro e dici questo è uno che insomma l'ha fatto da una vita e ha una grande dignità, prova una grande dignità per quello che fa e per se stesso e per il mestiere che fa. E una delle prime lezioni che ci fece per spiegarci quanto fosse precario quello che avremmo voluto fare, no? Anche se quel termine non esisteva ancora, però era per far capire che c'era in assoluto era poco lavoro ed era molto difficile. Lui ci disse, ad esempio, voi quanti anni avete più o meno? La media era attorno ai 25 anni. Quanti attori di 25 anni conoscete più o meno? E tutti conoscevano attorno ai 20-30 attori attorno a quell'età. Quanti attori attorno ai 30 anni conoscete? Ma anche lì 15-20. E poi su, attorno ai 40? 10. Attorno ai 50? 5. Quanti attori attorno ai 60 conoscete? 2. 1 forse. 800240024 oppure 349-238-6666. Salvatore scrive su Facebook: si può anche citare la condizione dei liberi professionisti della nuova generazione 30-40, sempre a metà tra la speranza di ricchezza e la voglia di dar fuoco allo studio. Sì, esattamente, anche di loro, Salvatore. Francesco: ho 39 anni, dopo 10 di lavoro fisso mantenuto con la massima dedizione, mi hanno buttato fuori con una parola: riorganizzazione. Oggi, oltre che lavorando in legge, sono un super precario. Ecco, cosa fai però adesso, Francesco? Francesca, io invece sono fuori dal tunnel. Francesca la viveva un po' male, evidentemente, la situazione del precariato. Da poco però, e la considero come una vittoria al Super Enalotto. Sì, veramente la considerava orribile, però anche tu dici cosa fai, Francesca. E poi Kiki, non ho idea, strano per qualche nome strano. Precaria della scuola da 12 anni. Niente viaggi né progetti. Da 12 anni non voglio entrare di ruolo perché questo lavoro non fa per me e non riesco a trovare un altro nonostante lo stia cercando da tanto tempo. Veglia, ho iniziato a lavorare nella scuola pubblica, un sacco di precari della scuola, a 22 anni. Ora ho 44, 22 di precariato e sono ancora precaria. 800240024 oppure 349. Niente, oggi mi parte l'otto, ragazzi. 349-238-6666. Qualunque sia il lavoro che state facendo, se avete attorno ai 40 e siete precari, oggi lo raccontiamo. Prendiamo almeno 20. 20 sono troppi, Tiziano. 10. Sono troppi anche 10, Rudy. 7. Viola. Almeno 7. 800240024. 349-238-6666. Il fatto è che andare a prendere un aperitivo per un astemio è un po' come andare a giocare a calcio per un ottantenne. Cioè, ti fai una corsetta, chiacchieri con chi hai vicino e magari stai anche insieme a gente che si diverte, no? Poi hai degli amici, quindi stai bene e alla fine un calcio al pallone ti capita pure di darlo. Ma il centro della questione l'hai mancato. Non ti puoi ubriacare. La mia fortuna però è che sono un po' come Obelix, cioè devo essere caduto da piccolo nella sostanza che rende gli ubriachi dei rumorosi fiumi di parole. Insomma, non sto zitto un attimo, che poi agli aperitivi non è che ci si ubriachi veramente, si diventa solo un po' alticci. Per ubriacarsi lì bisognerebbe essere ricchi. Insomma, io ed Erika eravamo davanti ad un analcolico alla frutta e un americano, che se non sbaglio è un mix di, mi pare, Campari, Martini Soda e altro, una roba che dicono essere dolce, però ovviamente non l'ho mai assaggiato. Eravamo su un marciapiede che si era trasformato in una spiaggia di Formentera. Eravamo io e la mia ex insegnante dei tempi dell'università, l'assistente del professore, quella che mi aveva sgamato mentre copiavo la tesi, quella che avevo incontrato in coda al cinema, Erika, quella che mi aveva detto se andavamo a prendere un aperitivo qualche volta e io avevo risposto di sì. Erika, quella alta, castana, attorno ai 40, spalle larghe, vita stretta, quella che assomiglia a Pippa Middleton, la sorella minore della principessa Kate. Io ero lì e Natalie no, era Tbilisi. Però non mi sentivo in colpa. Eppure non gliel'avrei detto a Natalie di quell'aperitivo, non so perché, ma era meglio di no. Insomma, erano anni che non ci si vedeva con Erika e mi immaginavo che avesse fatto carriera. Mi ricordo che era una brava, il suo capo la stimava, i suoi colleghi pure, o almeno a me sembrava così. E poi era stata molto gentile con me quando mi aveva beccato con le mani nella marmellata. Allora le ho chiesto come andava la sua carriera, prima che fosse lei a chiedermi che cosa facevo. E mi aspettavo che mi dicesse che il professore, che era anziano, era andato in pensione, aveva lasciato spazio a lei e che lei aveva vinto un concorso, magari, insomma, qualcosa di bello. E invece lei mi ha detto che sì, lavorava ancora in università, ma non era cambiato niente. Aveva 42 anni e faceva ancora la tirapiedi del professore, che invece di anni ne aveva 72, ma gli piaceva tanto stare lì. E però le borse di studio con cui veniva pagata erano state abolite, allora ogni semestre dovevano inventarsi degli studi nuovi, che non aveva neanche potuto fare, perché era lei a tenere tutte le lezioni, seguire le tesi, fare gli esami, e doveva anche trovare dei fondi da qualche parte. Lo diceva con grande serenità, però. Un po' come tutte le persone che hanno compreso che le situazioni sgradevoli non nascono per colpire proprio te, ma a volte ne fai parte. Insomma, riusciva a non prenderla sul personale. Invece a me dispiaceva, cioè non mi sembrava giusto. Per campare Erika faceva delle ricerche di mercato, intervistava la gente. Ma di questi tempi anche quel settore è un po' in crisi. E quindi, insomma, alla fine ha descritto la sua situazione in questo modo. Guarda Matteo, diciamo che sono felice di non avere dei figli da mantenere. Le richieste assurde della gente, che non ha più niente a cui pensare. Una vita, mi basta, anzi mi sembra infinita. Per amare, per godere, dei pochi istanti persi al mio dovere. Per evitare di rattristarci e parlare di precariato, abbiamo ricordato il tempo che fu e i corridoi della facoltà. Io non sono mai stato un allievo modello e poi ho lavorato e studiato insieme per alcuni anni. Ecco perché ero sempre ai ricevimenti dei professori. Volevo spiegare per bene la mia situazione, concordare programmi speciali per non frequentanti e forse anche un po' per far valere la faccia tosta che già al tempo avevo abbastanza discreta. Abbiamo riso dei nostri buffi incontri, dei personaggi che popolavano i corridoi del Dipartimento di Sociologia. Erika ha sempre amato quel mondo, nonostante la situazione precaria e la pochezza di gratificazione. Diceva che i ragazzi che vengono all'esame e dimostrano ad avere ascoltato, capito quello che le aveva detto a lezione, erano una soddisfazione sufficiente. Io non ero mai stato uno di quelli. Non ho mai frequentato. Lei si è messa a ridere e ha mostrato tutta una fila di denti bianchi che aveva sempre tenuto nascosti. Poi le ha squillato il telefono e mentre lo prendeva dalla borsa ho visto che spuntava un CD dei Radiohead. Lei si è scusata con un gesto della mano e si è allontanata per parlare. Io l'ho osservata camminare, l'ho osservata mentre parlava al telefono. Erika è una bella donna. E ho ripensato, chissà per quale motivo, che 10 anni fa non ci avevo mai fatto caso. Forse il ruolo, o forse l'imbarazzo. O forse è che non è detto che passare dai 30 ai 40 a una donna faccia male. Non è detto che invecchiare di 10 anni significhi sempre peggiorare. Erika mi sembrava in gran forma, cosa che non potevo dire di lei ai tempi della mia tesi, ad esempio. E poi ho pensato che adesso la conoscevo meglio, anche solo dopo mezz'ora di chiacchierata. Non avevo una famiglia, ascoltavo i Radiohead, e soprattutto era ancora una che comprava i CD, una che spendeva decine di euro per avere quello che con facilità potreste avere gratis. Che poi chissà se era per moralità o semplicemente che non sapeva scaricare da internet. Quando è tornata si è scusata ancora e mi ha detto che sua sorella aveva bisogno di lei perché era andata dal dentista e stava male, le chiedeva se poteva andare lei a prendere le nipotine in piscina e che quindi doveva scappare, insomma. Naturalmente non c'era problema, abbiamo pagato, ci siamo alzati dalla bolgia e siamo andati a salutarci all'angolo della strada, dove il rumore del traffico al confronto ci sembrava un fruscio di foglie. Ecco, è stato lì che lei mi ha detto «Ci rivediamo?» e io ho risposto «Ma sai, sono fidanzato, forse meglio di no». E me lo ricordo bene perché ero imbarazzato e mi sembrava anche poco carino declinare un invito così. E allora lei ha replicato: beh, ma scusa, dicevo che possiamo vederci come amici. So, sarà mica vietato, no? Ecco, e lì, un po', io mi sono arrabbiato. Sia perché avevo fatto una figura orribile, sia perché non è giusto che funzioni così. Insomma, non è giusto che se una donna dice a un uomo che le ha proposto di uscire che è fidanzata, lui ci rimane male e amen, mentre se succede il contrario, lei se la prende. Insomma, come al solito avevo solo domande mai risposte. Ci siamo salutati male, un po' di fretta, senza spiegarci. Con quella tentazione poi di mandare un SMS che magari recuperasse un po' dopo, ma che ci avrebbe resi più intimi e avrebbe peggiorato la situazione. E allora quando sono tornato a casa e ho trovato sulla porta un post-it di Ettore, un post-it che mi chiedeva se potevo dargli una mano a fare un tema, ecco, sono stato felice. Non so perché, ma con lui tutto è più facile. But I don't want your body so close and dismember. I don't want your body so close and dismembered. Don't take your pants off cause I don't wanna see it. Don't take your pants off cause I don't wanna see it. No, no, no, no. Ooh. piacerebbe ascoltare una trasmissione condotta da te e Oscar Giannino. Secondo me a Oscar Giannino non piacerebbe per niente ascoltare una trasmissione così. Mia moglie è precaria all'università, lei ha 37 anni a novembre. Sono temporary manager da ormai 10 anni, contratti bio triennale. Farmacista da 3 generazioni, dopo 10 anni di quel lavoro ho mollato tutto, ora sono quarantenne e sono universitario laureando in psicologia, il futuro incerto. Sono un autonomo, piccolo imprenditore, vi garantisco che oggi si è precari anche così. 800240024 349-238-6666. Poi Andrea mi sa che se l'è presa perché dicevo che l'ascoltatrice che scriveva non aveva vissuto bene il precariato, mi scrive: caro Matteo, se avessi famiglia, diventassi o fossi precario, l'avresti male anche tu, Andrea. Andrea, non ho famiglia, ma sono precario. 349-238-6666. Andiamo da Manuela, che oggi mi ha scritto un messaggio che riguarda la sua precarietà. Me l'ha scritto su Facebook. Pronto, Manuela? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene. Grazie per essere qui. Manuela, senti, tu... Allora, a parte che trascurare un figlio per chiamare alla radio è veramente una cosa che mi mette già di cattivo umore. È il tempismo. Quanti anni ha, Manuela? 3 anni. 3 anni, benissimo. E qual è il problema? Perché l'organizzazione del precariato fa acqua da tutte le parti. Beh, guarda, direi che questa telefonata forse potrebbe finire qua e spiegherebbe molte cose. Manuela, tu velocemente, poi ti lascio davvero a tuo figlio, che cosa fai nella vita? Allora, io lavoro in un'ONG, sì, che si occupa di cooperazione internazionale. E ci occupiamo in Italia in particolar modo di promuovere i progetti, di far conoscere i progetti che poi si fanno nelle altre parti del mondo. E senti, e tu sei precaria per scelta oppure funziona semplicemente così? Allora, nel mondo non si può sentire. È la cosa più diffusa, anche perché finché dipendi dai progetti che passano, che non passano, anche con le più buone, anche con le migliori intenzioni, fai fatica a garantire seriamente una continuità. Senti, dell'Exotan per sto bambino non ce l'hai, dagli qualcosa, dai. Non ce la faccio perché è entrata nel trip. È entrata nel trip, mamma. Mi dispiace tantissimo. Ma figurati, avrei voluto evitare. Ma no, Manuela, invece è molto divertente. Senti, fammi capire però, i progetti li proponi tu, l'ONG o qualcuno, o ci sono dei progetti ministeriali? No, perché sennò non sarebbe un'ONG, o sbaglio? Ma allora, il ministero in realtà una volta era il maggior ente di finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale. In questo momento ha sicuramente chiuso molto le disponibilità, per cui i progetti tu li costruisci soprattutto in base alle esigenze che riesci a rilevare nei luoghi dove operi. Manuela, senti, lo so che mi fa ridere questa cosa, ma non vi dovete preoccupare perché i bambini non muoiono perché piangono. No, lo immagino che non muoiono perché piangono, però più o meno ho capito. Senti, lo fai questo mestiere, dicevi, da 10 anni. Allora, prima di per 10 anni mi sono occupata in realtà di formazione. Ok. Adesso mi sono buttata, tra virgolette, in questo campo anche perché ho dovuto spostarmi. Perché vivi? Dove esatto, vivi? Perché ero fuori Milano. Dove stai? Dove vivi? Vicino a Como. Vicino a Como? Dici il paese, dai. Longo Lanzegrino, sì, ma è un paese di 3.000 abitanti. Sì, no, ma è per quello che ci piacciono. Puoi ripeterci il nome? Longone al Segrino. Sì. Manuela, grazie mille, ti faccio ritornare a tu figlio o figlia? Figlia, che comunque adesso ho abbandonato in un angolo del corpo. Perfetto, l'hai chiusa in benissimo, l'hai chiusa in bagno e sei andata dall'altra parte della casa, per cui... Senti Manuela, ti ringrazio moltissimo e ti auguro una buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao, grazie anche a te. Ciao. Adesso la borsa e poi io sono qui. Dice che non aveva il coraggio di dircelo in faccia, che si vergognava. Non gli hanno rinnovato il contratto, non c'aveva più una lira. Sperato fino all'ultimo in un miracolo. Miracolo che non è successo. Ed è tornato dai suoi, in Molise. Questa è l'unica epoca nella storia dell'umanità in cui c'è gente che torna in Molise. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo in una via di un borgo medievale, direi, di quelli che fanno tanto Italia, fanno tanto centro Italia più che altro, che poi non capisci mai se è Gardaland o se è veramente il centro Italia. C'è del cotto per terra, ci sono case in pietra, mattoni a vista, una vecchia chiesa di epoca 1600esca. Il cielo è grigio, è un po' uggioso e si vedono in fondo 2 persone che camminano. Centro Italia, molto medioevo. Nicola Sciannimanico, 43 anni, vacanza 2010, escursione al lago Trasimeno, Isola Maggiore, abitanti 32, per me ancora troppa gente, mia moglie è di tutt'altro avviso, io sono qui. Beh, povera donna, Nicola. Immagino che fatica se la porti in vacanza all'isola maggiore del lago Trasimeno. Lei e voi due e i 32 abitanti. 349-238-6666. Qualche esempio di precariato in giro, se trovo la pagina. Eccola qua. Da 10 anni investigatore privato iperprecario con 2 figli da mantenere. Sono Andrea, 3 figli, 29 anni, agente di commercio. 42 anni, venditore eBay, Pony Express in bicicletta, fotografo, musicista, tutto precario. Roma, 35 anni, precario della TV, Ugo. Ho lavorato per 8 anni in fabbrica, far la segretaria. Ora ho 40, sono precario nella scuola per scelta. È ancora pittore per scelta, uno dei mestieri più precari. Flavio, sposato, 4 figli, libero professionista, private banker. Per rabbia verso vecchio capufficio, non tornerei mai indietro. Queste sono quelle robe che ogni tanto ti piglia la fotta e poi ti dici cosa? Cosa è successo? Ti piglia la fotta, è una ti piglia la fotta, non si dice. Vabbè, di là dal vetro non l'ho mai sentito, io sì, che ti parte l'embolo. È più o meno, è quella roba lì. 80024, andiamo in ordine, andiamo in provincia di Lucca d'Antonio. Pronto Antonio? Pronto, ciao. Ciao, grazie mille per essere qui. Tu hai un profilo abbastanza particolare perché sei precario ma lavori in un centro per l'impiego. È un po' un cortocircuito, penso. È un po' sì, e cerchi lavoro per gli altri, nel senso che gli altri vengono a cercare lavoro lì e tu lo distribuisci, se ce n'è. Io distribuisco. Io, tra l'altro, mi occupo del reclutamento disabili, che è un settore ancora un po' più complicato e delicato del nostro lavoro. Certo. E quindi cioè, giornalmente io ricevo 5-6 persone che mi chiedono aiuto per essere introdotte nel mondo del lavoro. Fammi un esempio, in questi ultimi giorni in che tipi di lavori hai inserito 3 o 4 persone? Abbiamo inserito qualcuno nell'inserimento dati computer, persone magari diplomate che hanno avuto un incidente da adulto o maturo, quindi hanno maturato alcune capacità buone, oppure in qualche servizio generale di albergo, lavapiatti, fattina ai piani, lavori stagionali soprattutto, che poi la vertigine è caratterizzata dalla stagionalità. Certo. Quindi... Senti, tu però Antonio hai 50 anni. Sì. E com'è che sei ancora precario se hai un lavoro di questo tipo? Perché probabilmente le risorse economiche delle pubbliche amministrazioni non hanno mai consentito un'espansione del personale, quindi noi da 10 anni lavoriamo sotto tutte le forme possibili. Ho passato partita IVA, collaborazione coordinata, agenzia formativa, cooperativa sociale, ogni anno ho cambiato praticamente regime. Ho capito. Di anno in anno. Ma quindi parliamo di pubblica amministrazione comunque, Antonio? Sì, sì, certo. Sono servizi pubblici che in parte lavorano e campano con persone prese a contratto. Antonio, ti ringrazio molto, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, buona giornata. Andiamo a Roma da Roberto. Pronto, Roberto? Sì, eccomi qua. Ciao, senti, tu lavori in settore edile, cosa fai esattamente? Beh, io faccio, diciamo così, il capo cantiere, il project. Adesso sto seguendo dei campi fotovoltaici, poi ho seguito per 10 anni reti per telecomunicazioni, ma sempre con contratti però a tempo indeterminato. Però è la caratteristica del nostro lavoro, è quella proprio di essere precari per antonomasia. Senti, ma in media quanto porti a casa all'anno? In media, ma ovviamente. Ma intorno ai 40.000 euro, grosso modo. E tu hai una formazione particolare oppure? Sì, io sono diplomato, ho 2 diplomi, ho una quasi laurea in architettura. Ok. Quindi, però il discorso è questo, cioè il nostro mestiere, cioè il mestiere degli edili, il mestiere di chi lavora nelle infrastrutture o comunque lavora nelle costruzioni, è un mestiere precario per antonomasia, anche se hai un contratto a tempo indeterminato, segui il cantiere, segui. E quando chiude il cantiere è finito. E quando chiude il cantiere o quando chiude il progetto, sì, ho capito. Poi puoi anche continuare un po' con la stessa società, però ti conviene comunque cambiare, andartene, cambiare mestiere, cambiare anche attività. Ho capito. Roberto, ti ringrazio molto, in bocca al lupo. Grazie. Ciao, grazie. Buona giornata. Ciao. Andiamo da Laura, provincia di Rimini, velocemente. Ciao Laura. Ciao, senti, ciao Matteo. Tu sei precaria per un tour operator. Sono manager e sono precaria. Come è possibile essere manager? Vabbè, perché i manager in teoria sono precari per eccellenza, perché potrebbero mandarti via, questa è la questione, giusto? Sì, no, perché mi tengono con un contratto a progetto da 10 anni, ho fatto carriera all'interno dell'azienda, mi hanno trasferito adesso qui, io vengo da giù, dalla Sicilia, mi hanno trasferito al nord e continuo ad essere precaria. Quanti anni hai, Laura? 35. E quanto guadagni all'anno? Poco. Poco vuol dire meno di 40? Sì. Ok, e che formazione hai? Io ho lasciato l'università per questo lavoro, perché devo lettere filosofia, non c'entra assolutamente nulla. Eh beh, certo. E poi poi sono entrata così, ho iniziato come guida, come compagnia. Ho capito. Poi abbiamo fatto carriera e continuo a essere precaria. Laura, ti ringrazio, in bocca al lupo e ti lascio continuare a guidare. Grazie. Ciao, buona giornata. Ciao. L'ultima, andiamo in provincia di Venezia da Roberto, che lavora sulle navi mercantili, o lavorava. Pronto, Roberto? Sì, buongiorno. Ciao, buongiorno. Tu che cosa facevi sulle navi mercantili? Allora, come dicevo, ero imbarcato da allievo, è stato tutto un iter, allievo ufficiale di coperta, per dopo conseguire il titolo di aspirante capitano di lungo corso, per dopo fare un altro esame per capitano di lungo corso. Dicevo che appunto è un lavoro precario perché per chi non è di ruolo, che sono rarissime, si contano forse in una mano le compagnie italiane che possono retribuire un marittimo anche qua. Quando è a terra, diciamo, e tutte le altre praticamente quando un marittimo sbarca termina il suo contratto che varia dai 4 ai 5, forse anche 6 mesi di, a bordo, dopodiché o si ripresenta alla compagnia se c'è disponibilità la compagnia per reimbarcarlo oppure deve battere la porta presso da qualche altra parte. Però scusami, per farci un'idea, Roberto, un imbarco di 4-6 mesi, il compenso a quanto equivale? Ma quello dell'allievo sono stati cambiati notevolmente i contratti dei marittimi. Però in linea di massima, Roberto? Ma l'allievo è in contratto di formazione, di conseguenza parliamo di 800 euro al mese. Non tutte le compagnie segnano lo straordinario. Roberto, guarda, purtroppo ti devo salutare. Ti ringrazio molto però, buona giornata. Dire un'ultima cosa? Dimmi, dilla, velocemente. Ecco, sì, voglio solamente ricordare che queste figure professionali, comunque, nello stesso, anche nel precariato, spendono molti soldi per fare dei corsi di aggiornamento che non sempre vengono poi ricordati. Ok, certo, immagino. Questo poi in realtà vale anche un po' per tutti. Roberto, ti ringrazio molto, buona giornata. Chiudiamo, come al solito, un pezzo di un racconto che è arrivato per il racconto che vi racconta. In una bella mattina di primavera mi schiero al via con altri 2000 podisti. 3, 2, 1, partiti. Il mio obiettivo è di finire la corsa in meno di 4 ore, che vuol dire quasi il doppio del tempo rispetto ai migliori, ma va bene così. Sono consapevole delle mie possibilità e voglio godermi questa mattina di sport. Quando transito nel tratto in cui mi aspetto di incontrare mio padre e non lo vedo, mi stupisco un po', però in quel momento ho altri problemi, quindi vado oltre e non ci penso più. Finisco la gara, vado a casa, mi faccio la doccia e finalmente mi godo un po' di riposo. Poi all'improvviso mi ricordo che ancora non so dove sia finito mio padre e quindi gli telefono. Ciao papà, tutto bene? Sì che ho finito la corsa. Ma come non mi hai visto passare? Ma tu piuttosto dove eri? Insomma, scopro che lui, mio padre, sì mi ha aspettato nel punto prestabilito. Ha atteso il passaggio dei primi e visto che non sono arrivato neppure nei 5 minuti successivi, ha deciso che io ero passato prima di tutti. E se n'era andato a casa, soddisfatto. Sono un poliziotto, 26 anni, ho il posto fisso da quando ne avevo 20. Mi sento un pesce fuor d'acqua a sentire i problemi dei miei amici, anche se a volte devo confessarti che è un po' l'invidio. Grazie a Fabio Rudi Cantadori, grazie a Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?